Radio 24 Reportage. Castel Volturno, la città irregolare, di Giampaolo Musumeci. Al boomerang si spaccia e ci si fa. Il pusher nigeriano accoglie i clienti sul comodo divano e prepara con cura sul vecchio tavolo in legno le dosi. Peccato che non ci siano porte né finestre al boomerang. Così non è difficile entrare a curiosare in quel blocco di cemento armato dalle orbite vuote. L'eroina è lì sul tavolo e attende di essere consumata. Un divano, due sedie, un orologio a parete funzionante. Fuori un mare di immondizia. L'arrivo del pusher, piuttosto aggressivo, e di alcuni clienti ci suggerisce che è meglio andare via. Il boomerang è una delle zone franche di Castel Volturno dove polizie e carabinieri raramente entrano. Siamo lungo la Domiziana, la lingua d'asfalto lunga 27 km che unisce Mondragone a Pozzuoli. La Domiziana, la dannazione di Castel Volturno, anzi, una delle tante. Una via che invece di unire, separa, disperde, divide e demarca. Castel Volturno, piccolo centro in provincia di Caserta, è un concentrato di problemi. Castel Volturno, la città dimenticata, offre il peggio che l'Italia può offrire. Pochi parlano di Castel Volturno e le amministrazioni che si susseguono poco risolvono i problemi della città. Andiamo con ordine. Castel Volturno è il più grande concentrato di abusivismo edilizio d'Europa. Tutto qui è stato costruito abusivamente. Le villette fronte mare, l'intero villaggio residenziale Coppola, la caserma dei carabinieri, l'ospedale. È un territorio dove i rifiuti sono ovunque, nelle spiagge, che pure in parte hanno iniziato a pulire, lungo le strade interne alla Domiziana, dove sembra di essere più in Africa che in Italia, nei rigilagni, i vecchi canali borbonici, che scaricano liquami di tutta la provincia in uno dei mari più belli della penisola. È un territorio dove il clan dei Casalesi ha forti radici. È un territorio dove esiste una delle più grandi comunità di africani irregolari d'Europa. È un territorio dove la Camorra ha affidato, o meglio ha subappaltato, alla mafia nigeriana la gestione di droga e prostituzione. È un territorio che potrebbe essere magnifico, un litorale lunghissimo, roba da fare invidia a Miami, come dice qualcuno. Invece, è tutto in rovina. Il villaggio Coppola, o meglio quel che ne resta, è ormai solo archeologia urbanistica. Qui furono edificati e poi abbattuti i primi ecomostri d'Italia. Le centinaia di villette, che dovevano essere il rifugio della borghesia campana, sono state prima occupate dagli sfollati del terremoto dell'Irpinia, poi da quelli del bradisismo, infine dagli immigrati. Spesso non hanno acqua, alcune palazzine sono poco più che rovine, se non sono occupate, sono affittate in nero, a prezzi esorbitanti, ai neri. Tutto questo è Castel Volturno, tutte queste sono le facce di Castel Volturno. Ma partiamo dalla faccia nera della città e ascoltiamo il direttore del centro di accoglienza Fernandez, Antonio Casale. La situazione di Castel Volturno è sempre dinamica, non è che si può cristallizzare, diciamo, in un momento, perché abbiamo un flusso continuo di persone che vengono, persone che vanno, parliamo di immigrati. L'alloggio, diciamo, la facilità di reperire alloggi resta la prima causa di attrazione. La seconda causa è che qui sono meno controllati, è un territorio più libero, dove anche se hai situazioni di documenti non regolari puoi stare abbastanza tranquillo. La presenza ufficiale, siamo sui 2.400 iscritti al comune, poi vi è una quota abbastanza elevata di regolari non iscritti. Si fa subito a dire clandestini o irregolari. In realtà vi è un grosso numero di immigrati che ha il permesso di soggiorno o per motivi umanitari o per richiesta di asilo politico o per asilo politico riconosciuto, eccetera, che vivono a Castel Volturno come un limbo in attesa poi di sistemarsi o in altre parti d'Italia o anche qui sul territorio. E poi vi è una quota di irregolari, facendo una stima più o meno realistica, 7-8 mila presenze, insomma. C'è chi parla espressamente di apartheid. La Castel Volturno bianca e quella nera sono separate e comunicano poco fra loro. Il centro storico, quello con il castello e il porticciolo sul fiume Volturno, è abitato dai castellani. La Domiziana, la zona delle villette verso il mare, è soprattutto nera. E qui, ultimamente, carabinieri ed esercito pattugliano con regolarità il territorio. Permesso di soggiorno per tutti è stato ed è lo slogan di molte associazioni che difendono i migranti e l'aspettativa di tanti irregolari che qui vivono di sogni, chimere, passaparola tanto suadenti quanto fallaci. L'Arci e il centro sociale ex canapificio di Caserta si danno da fare quotidianamente e informano i migranti sui loro diritti. Perché non ci date i documenti? Perché non ci date un lavoro? È la litania ricorrente degli africani qui a Castel Volturno, che sognavano il paradiso dell'Europa e si sono trovati in un purgatorio, o meglio, in un inferno. E di tornare indietro in Africa non se ne parla, è la sconfitta più grande, il fallimento di un progetto di vita, l'umiliazione. Per questo il feticcio, il sogno irreale dell'Europa, viene di continuo alimentato pur di non ammettere il disfacimento delle aspettative. Dalla strage dei Ganesi le cose a Castel Volturno sono cambiate. Alle rotonde sulla Domiziana le armi lunghe dell'esercito le vedi da lontano. Le prostitute qui sulla via principale sono ormai poche, lo spaccio sembra diminuito, ma nell'African Town tutto è sommerso. Sentite Alessandro Catalano che gestisce il caffè Elite qui sulla Domiziana. Finalmente dopo tanti anni c'è la presenza dello Stato. Qua prima ad ogni metro della strada c'era una prostituta, c'era un covo di spaccio. Tutto quello che è illegale Castel Volturno è del filo all'occhiello del territorio di Castel Volturno, illegalità. Pensa che qua 10 extracomunitari su 9 su 10 non hanno la patente, non hanno l'assicurazione, non hanno il passaggio di proprietà, non hanno le targhe vicino agli scooter, gli sequestrano la macchina, la lasciano per strada, si rompe, la lasciano per strada. Adesso tutte queste persone saranno andate via, non so in quale paese, perché più vita facile di Castel Volturno non la trovano nel resto d'Italia. Se tu vedi la parte sud di Castel Volturno, lato mare, ci sono stabilimenti balneari che facciamo invidia all'Emilia Romagna. Però è tutto chiuso, è tutto adesso abbandonato. Adesso è tutto abbandonato perché un po' il mare, un po' la delinquenza, un po' gli extracomunitari. Ma secondo te chi ci deve venire in vacanza qua? Già. Chi ci deve venire qui? Giusto il Napoli Calcio che si allena nei campi a fianco all'Holiday Inn, giusto qualche spericolato pescatore che in spiaggia sfida le bande di africani che rapinano e girano armati. Però mi diceva che qua non è una zona proprio, diciamo, sicura. Sicura no. Come sappia io, però per gli altri non lo so, sincero proprio. E ci sono stati casi anche di aggressioni, rapine. Aggressioni, come? E arrivano armati pure. A volte sì. E sono nigeriani. Scuri di pelle, ma non lo so, sì. Di nazione quale so. Però nonostante tutto venite a pescare. Che ma fa? Troppa è passione. È chiaro. La passione non si lega a niente. Ma lei vivrebbe a Castel Volturno? No. Perché? Che non piace. Ma avete notato un cambiamento l'ultimo anno? Più polizia, più... Niente. Torniamo sulla Domiziana. Lei che lavoro fa? Io mi arrangio a fare manutenzione. Il bianchino, idraulico e elettricista. Quanto riesci a guadagnare una giornata? Ma la giornata proprio che posso andare la migliore 30 euro al giorno. 30 euro al giorno? Sì. Ci sono gli extracomunitari che parli di bianchini, che loro non lo sanno fare, vengono pagati miseramente anche loro e ci tolgono il nostro lavoro. Sono un ex pregiudicato, non ho vergogna di dirlo, però io ho bisogno di loro. A 50 anni io vado a pulire i cessi per guadagnare dalle 30 euro a 20 euro al giorno. E cerco di lavorare onestamente, non per offendere chi veramente ruba, perché purtroppo siamo costretti a fare anche queste cose qua. Però chi ci governa e chi ci comanda a noi, loro devono prendere un'iniziativa veramente a dire aiutiamo veramente chi ha bisogno, chi veramente non vuole partecipare diciamo, a essere cattivo, a mettersi con la camorra. Io devo comprare anche sotto la macchina ruote usate da 10 euro l'una. Lui ha chiuso il negozio di gomma. Ha chiuso il negozio che sta qua più avanti, a 200 metri, questa con la palestina già. Le persone non hanno nemmeno la forza di... Da un anno e mezzo sta parte va peggio? Cioè, perché le cose no, parliamo da 3 anni ad oggi, ma stanno andando ancora più peggio le cose. Non c'è più turismo, non c'è la gente che perché, cioè, hanno le case affittate, poi hanno cose di proprietà, che aprono il periodo di essere qua, hanno paura, non vengono più. Abbiamo zingari a non finire qua. E questa comunità non è che io sto contro loro, per l'amor di Dio, non sono un razzista. Però se fanno le persone civili come le facciamo noi, per me sono ben accettati. Però se loro vogliono venire qua con la scusa che lavorano e spacciano droga, per me non è bene, non sta bene. Mi pare che siamo vietnamiti, vedi, non passano due macchine, vedi, le macchine. Poi alle 8 di sera non vogliamo uscire da casa perché non c'è nessuno. Questo è il problema. Ma lei ha paura di uscire la sera? Io come? Ho paura di uscire la sera. Ma che di mattina? Mi devo scendere a aprire il bar alle 4 di mattina. No, perché si imbriacano, si chiamano ammazzate fra di loro e uno di noi ha paura. E loro cercano di andare. Gli animali sono più buoni di loro. Che loro si andano a fare pipì in mezzo alla strada, non ci pensi c'è un bambino, niente. Quando uno di noi lo va a chiamare, la roba, ci vattene pure. Come avete sentito, quando uno gli dice qualcosa viene persino picchiato. Nella città campana c'erano tanti degli immigrati di Rosarno. Esiste infatti un nocciolo duro di almeno 2000 lavoratori che si sposta tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, ma perfino in Lombardia, a seconda della stagione e dei lavori, rigorosamente in nero, che il territorio offre. Ma perché vengono qui gli africani? Perché c'è un tetto, non ci sono controlli e ci sono altri africani. Anzi, qualcun altro che controlla c'è. In Camorra they have an amount of money they are supposed to take for every month. Così, come avete sentito, gli africani pagano il pizzo per poter aprire negozi sulla via Domiziana. Ma sono pochi quelli che riescono a barcamenarsi. La maggior parte di loro rimane avviluppata nel limbo di Castelvolturno. La città avrebbe bisogno di un piano di rilancio del territorio vero per restituire dignità agli italiani e agli africani che ci vivono. Il nuovo litorale Domizio, di cui si parla da anni, non parte mai. Perché nessuno fa nulla a Castelvolturno? Perché la si lascia morire così? E mentre nessuno fa nulla, i nigeriani fanno i loro affari, il clan dei Casalesi fa i suoi affari e i cittadini castellani e africani, regolari e irregolari, se ne vorrebbero scappare. La nuova amministrazione di Castelvolturno potrebbe dare una vera occasione alla città per uscire dal limbo in cui versa da decenni. La nuova amministrazione di Castelvolturno dovrebbe restituire alla città la sua immagine, quella di un grande laboratorio di multietnicità, di una delle più belle spiagge d'Italia, di un luogo in cui vivere e non sopravvivere. Per questo continuiamo e continueremo a parlare di Castelvolturno, che è un pezzo di Africa, come dicono in tanti, ma che è anche e soprattutto un pezzo d'Italia. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.